brucia l'orrore dell'accaduto, ci marca il cuore. Ansele, accetta questo piccolo ricordo, un nuovo rifiuto per Ansele. Fregatene, fumalo dove vuoi, come sempre libero. Solo i pensieri, Ansele, accetta questo piccolo pensiero, un nuovo rifiuto per Ansele, fregatene o raccoglilo dall'asfalto, come sempre, libero. Soltanto il firmamento, Ansele, accetta questa piccola preghiera, nuovo rifiuto per Ansele, fregatene e sorridi tra le stelle.